come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Nella grande drammaturgia, nella grande sceneggiata andata in onda ieri sera durante Anno Zero, condotto naturalmente da Michele Santoro, la parte del leone, a parte i ritagli di intercettazioni telefoniche, la lettura di queste intercettazioni, le interpretazioni, la sceneggiatura appunto del brogliaccio dei magistrati che ormai molti di voi conoscono, la parte principale l'ha avuta una cosiddetta escort, anche se non è che ci sono i patentini, i tesserini, così si professa, faccio ogni tanto la escort, adesso un po' meno, una signora che oggi è stata sentita dai magistrati che si chiama Nadia Macri, che è il fidanzato e la madre, in realtà dicono essere poco credibile, ma al di là di questo, Superman, che state ascoltando, di Miguel Bosé, si giustifica così. Poi lui dopo un po' si avvicinò a un'altra camera dove c'è un lettino dove fai i massaggi, no? E dopo un po' lui disse: allora avanti la prossima, e ogni 5 minuti entravamo, aprivamo la porta e consumavamo il rapporto sessuale, così, una alla volta, 5 minuti. Super, Superman, don't you know... 5 minuti per ciascuna. Sesso con Berlusconi non proprio completo, eh. Io andai da presidente in camera e lì ci fu il rapporto sessuale. Non è che l'abbiamo avuto proprio, il rapporto sessuale proprio completo, però poi c'è una vicenda che riguarda il numero di telefono di Berlusconi. Ieri durante, c'è una polemica molto forte a riguardo, durante questo servizio di Anno Zero è stato fatto vedere il numero, mancavano le tre cifre, però nei verbali consegnati alla Camera ci sono le cifre finali e dunque il gioco è fatto. Questa è la foto che le ha con l'autografo del presidente. Sì. Questa l'ha avuta in occasione della presentazione, cioè la prima volta che è andata ad Arcore e poi le ha dato il suo numero di telefono. Sì, che l'ho scritto qua nell'agenda e prima vabbè ce l'avevo sul cellulare, però poi l'ho perso. E su Facebook si sono creati gruppi, manda un messaggio, esprimi solidarietà a Berlusconi con questo numero di telefono che immagino sia già sparito, ma nel corso della puntata lo vedremo e lo faremo questo numero. L'ironia di Bersani, premier come un regista di film porno. Qui non è questione di moralismo, io non faccio moralismo al netto dei reati, perché per l'amor di Dio uno, che so, fa il mestiere di regista di film porno, non ho nessuna obiezione, o più nobilmente scrive Le Mille e Una Notte, non ho nessuna obiezione, ma se uno fa il presidente del consiglio deve sapere che c'è un rapporto fra comportamenti privati e azione pubblica. C'è anche un'intervista al TG5 del medico di Berlusconi, un nostro amico, il dottor Zangrillo, che qui a Radio 24 alla Zanzara disse: Berlusconi in realtà dimostra 50 anni e dal punto di vista sessuale è una persona assolutamente normale. Dice Zangrillo al TG5 che per Berlusconi è tecnicamente impossibile una vita così dissennata. Professor Zangrillo, da medico personale del Premier, è possibile, come si legge nei giornali, che Berlusconi sia un uomo dalla vita pubblica molto intensa e da una vita privata dissennata ai limiti dell'umano? No, è tecnicamente impossibile, ritengo che sia assolutamente inverosimile. Il Presidente del Consiglio si occupa quotidianamente, per larga parte della giornata, anche quella notturna, del suo lavoro, per cui ritengo che quello che viene descritto, quello che viene dipinto, sia tecnicamente impossibile. Beh, insomma, tecnicamente impossibile, bisogna vedere cosa è tecnicamente impossibile. Vabbè, insomma, nei telegiornali, in questo caso il TG5 che intervista il medico di Berlusconi, nei servizi in televisione c'è soprattutto questo. Ma noi ci colleghiamo, mentre in Italia c'è questo casino pazzesco, con un treno che porta da Londra all'aeroporto di Heathrow. Chi c'è sopra questo treno? Marco Pannella, buonasera. Ciao, buonasera, insomma. Come stai? Beh, un po' stanco della giornata, che poi siamo qui in treno, come sai, forse lo conosci, è sempre affollatissimo. Mentre tutto, c'è tutto questo casino in Italia, tu te ne stai a Londra a protestare contro Tony Blair? No, io, tu sai, non protesto mai. Protestare, ho insomma. Ho degli obiettivi, e l'obiettivo è far emergere la verità che presumo di conoscere dopo 5 anni di studio costante di fornitura di documenti, sì, su quello che è accaduto nel 2003, il 20 marzo. È accaduta una cosettina strana, è che tu sai... La guerra, che insomma. Noi avevamo fatto votare il Parlamento italiano, noi radicali, l'opzione, l'auspicio di un'alternativa alla guerra, che era Iraq libero, sì, no, con l'esilio, attraverso l'esilio, sì, di Saddam. Bene, il 20 marzo Bush decise di far scoppiare la guerra, perché stava scoppiando la pace, perché Saddam aveva accettato di andare in esilio, e quindi, avendo 250.000 persone lì e il complesso militare industriale del quale era stato facile profeta il grande presidente, il generale Eisenhower, è accaduto quello che è accaduto. Senti, ma che non hai protestato, e che hai fatto allora? Sei andato lì perché oggi c'era l'audizione, non hai protestato, va bene, ma che hai fatto? Sei andato lì perché c'era l'audizione di Blair, no? Sì, ma siccome non sono un voyeur, se non sono quelli che vanno a vedere, e non mi interesso, non sono andato dal medico di Blair per sapere nulla sulla sua attività sessuale o sulla buona sua salute, ma sono andato semplicemente per proseguire quell'azione per la quale, sì, 3 giorni fa è scoppiata una polemica istituzionale gravissima fra la commissione, cioè, che è quella che deve indagare su quelle questioni, e il governo conservatore che aveva rifiutato di fornire i documenti su quel periodo. Voglio capire una cosa, Marco, ma insomma, tutti i disinteressi di quello che sta avvenendo in Italia con i magistrati, Berlusconi, Rubi, queste robe qua, non te ne frega niente? Ma guarda, sì, ti rispondo, se ti fa piacere non me ne frega nulla, d'accordo? No, perché mi fa piacere? No, ma è una domanda così. Ma per farmi una domanda del genere, scusami, lasciamo stare come si qualifica. Si sa che noi... No, qualifica pure, è una stronzata, dillo pure. Le riforme del nostro paese... Le grandi riforme del nostro paese, si è chiusa la linea, che è successo? Vabbè, adesso lo riprendiamo, La polemica con Pannella è inevitabile. Marco da Bologna intanto, è già in linea, 800... Marco? No. Pronto? Un altro Marco, non Pannella, Marco da Bologna. No, sono Marco. Sì, non Pannella. Sì. No. Volevo dire che bisogna piantare di fare i moralisti. Sono uno non proprio Berlusconi, però. Bisogna che... Non bisogna cavalcare queste notizie qui, bisogna fare dei fatti a sinistra, non fare dei moralisti, che abbiamo delle pagine di giornali piene di escort. Abbiamo i viali pieni di escort, chiamiamoli così, siccome se ce ne sono... 1 milione minimo, ce ne vanno 3 milioni di italiani. Allora? Cioè, a parte che stanno facendo una legge, vorrebbero fare una legge punitiva nei confronti dei clienti delle prostitute, a parte questo, che è un piccolo dettaglio. Tasse, però anch'io, cioè, la legalizzerei la prostituzione. Per adesso non è così. Siccome se Berlusconi vuole andare con 5 o 6 ragazze, che ci vadi, però bisogna non cavalcare queste onde, bisogna, secondo me, sconfiggerlo con dei programmi, con delle cose serie, non anche la puntata ieri di Santoro, bravo, finché vuoi, però. Ma è televisione quella, eh. Cioè, è la televisione, la grande drammaturgia santoriana. Insomma, poi uno, a uno può piacere o no, ma non capisco lo stupore nei confronti della puntata di ieri sera di Santoro, con la Santanchè indignata, uno schiavo della sinistra, eccetera, eccetera. Francamente non lo capisco. È Santoro, non è che ci sia stato un cambio di scena rispetto al solito. Non capisco, Marco. Intanto Pannella è tornato con noi. Marco, non ti arrabbiare, volevo semplicemente dirti. No, ma io non mi so che so tanto. Che non te ne frega, so che era una domanda. No, guarda, se c'è una persona. Non frega niente di nulla, sono io, appunto. Per rispetto proprio alla gente che frequento sempre, e quindi dico, tutti quanti sanno che noi diamo notte e giorno da decenni, e devo dire con stile diverso di tutte le altre forze politiche, tutte, per delle riforme, no? Compresa quella sulla giustizia, certo. E sulla quale non siamo ancora riusciti, e abbiamo nelle carceri italiane quelle che io chiamo, dobbiamo stare molto attenti, una specie di nucleo consolidato di Shoah, di neonazismo, perché addirittura. Non ce ne occupiamo, no, voglio dire, tranne noi sono ormai 20 anni che si parla della riforma delle carceri, della riforma della giustizia, abbiamo vinto il referendum su queste cose, e la politica, come sul referendum, sul finanziamento pubblico dei partiti, sulla responsabilità civile dei magistrati, e abbiamo dei trionfi da 90% di partecipanti al voto, l'80% di sì, e poi la politica contro la legalità decide altro. Allora Marco, prima, adesso abbiamo il traffico, tu resta in collegamento con noi se vuoi. Voglio chiederti una cosa, vedi in questa inchiesta, se hai letto qualcosa eccetera, degli elementi che possono far pensare ad una, a, come dicono nel centrodestra italiano, nel PDL, una sorta di persecuzione, di perseveranza dei giudici nei confronti del Presidente del Consiglio? Superman, don't you understand? Caro Parenzo, sei arrivato finalmente. Eccomi. C'è Lina con noi da Londra, Marco Pannella, salutalo anche tu. Onorevole? Sta bene, sta bene. Stanco. È stanco. Che domanda ci vuoi fare? Come no, no, tu mi hai posto la domanda. Ah, la domanda su se c'è una persecuzione in questa inchiesta, come dice il centrodestra nei confronti di Berlusconi. No, io quello certissimamente posso dire. Sì. E che la magistratura lombarda e soprattutto milanese in questo caso si è mobilitata in modo, uno potrebbe dire, mirabile, dedicando tutto il suo tempo eccetera ad attuare l'obbligatorietà dell'azione penale quando appunto solo ci sono dei problemi di reati non moralmente disgustosi o no, non mi interessa, ma non di primaria importanza per la vita delle istituzioni, e questo lo ha fatto mobilitando, dice Silvio, 150 funzionari o magistrati, intercettazioni, anche se solo 50, e lo stesso. Perché? Perché contemporaneamente c'è un candidato a successione di Silvio, al quale così si pensa di accelerare i tempi della caduta o del riposo, no? A questo punto un candidato alla sua successione che ha avuto manifestamente comportamenti criminosi a livello istituzionale. Di chi stai parlando? Messo, parlo di Formigoni, e invece forse a questo deve la sua repentina carriera. Ah, ho capito. Cioè la stessa perseveranza e gli stessi mezzi devono utilizzarli per la storia delle firme false, tu dici, o comunque quello che voi denunciate, cioè. O sbaglio, questo è il tuo ragionamento, se non ho capito male? La linea va e viene, caro Parenzo. È sparito. Comunque, insomma, mi pare di capire che anche secondo a Londra, Pannella? È andato a protestare per la guerra in Iraq contro Tony Blair. Lui dice che non protesta. Oggi ci sono cose in Iraq. Lo so, che ti devo dire? È un grandissimo, no, per carità. Una cosa un po' originale, certamente, però insomma, è nelle corde dei radicali. nelle corde radicali. Però siccome abbiamo sei minuti, io direi di richiamare Pannella dopo, perché altrimenti abbiamo pochissimo tempo. Mi sembra che la sua idea però sull'inchiesta sia chiara, al di là della questione di Formigoni, su cui i radicali si battono, la legittimità della presidenza Formigoni, le firme, eccetera, eccetera, una storia lunghissima. Mi sembra che anche Pannella dica, insomma, certamente l'obiettivo è politico da parte dei magistrati milanesi, questo l'ha detto. Sì, dice che non vede reati sostanzialmente. No, ha detto reati di non primaria importanza, questo ha detto. Comunque questo ha detto Pannella. Che a Londra per l'Iraq. Sì, così, certo. I radicali sono così, sono strepitosi per questo, capito? Certo, mentre Londra, tutta l'Italia parla di rubi, eccetera, tutto, eccetera. Fanno manifestazioni importantissime, Falun Gong, la Cina, i diritti umani e l'Iraq. No, ma è ammirevole, non lo dico con ironia stavolta, però sai. Ma io non so se tu hai sentito ieri la Macri, no? Durante Anno Zero. Nadia Macri, io voglio farti risentire 5 minuti per ciascuna. Poi lui dopo un po' si avvicinò a un'altra camera dove c'è un lettino dove fai i massaggi, no? E dopo un po' lui disse, allora avanti la prossima, e ogni 5 minuti entravamo, aprivamo la porta e consumavamo il rapporto sessuale, così, una alla volta, 5 minuti. Bel Pietro, Superman, se tiene quei ritmi. Berlusconi, devo dire, cioè, se c'erano, non ho capito quante ragazze, ma tutte in fila, una alla volta, devo dire, è formidabile, Superman. È Superman davvero, perché se è riuscito a consumare, non so, 16, 20 rapporti sessuali in una notte, a 5 minuti una alla volta, deve essere un uomo prodigioso, diciamoci la verità. È curioso, mi sembra un po' improbabile, mi sembra che siamo così al foglietton, ci raccontiamo un po' di storie. Già perché siamo 6, ha detto che erano 5 o 6, ma sicuramente. Complimenti, però sarai sicuramente uno che 5 o 6 li fa normalmente. La grande drammaturgia santoriana di ieri sera, boom, boom, boom. Anno Zero può cominciare. Una cosa. Cominciamo con la prima prostituta. Dov'è? grandi proteste della Santanchè, che oggi dice schiavo della sinistra, non paghiamo il canone Rai. Ormai è una moda dire non paghiamo il canone Rai, ma io voglio dire, se uno conosce Santoro, c'è quest'inchiesta sulla prostituzione e su altro, come sappiamo a Milano, cosa ti aspetti? Non ci andare. Sicuramente non parla del dramma di Falun Gong e non parla della guerra in Iraq, è una specificità, parla di questo e poi rappresenta Arcore come una sorta di sentina, di luogo di tutti i mali, dove si consumano orge pazzesche, si prendono pezzi di intercettazioni, si consuma soprattutto quello che Radio 24, che è la radio della Confindustria, potremmo definire il fordismo sessuale, no? Per usare, come dire, una nuova immagine. Io stavo dicendo che Santoro. Fordismo sessuale, mi piace fordismo sessuale. Dove l'hai trovata sta roba oggi? Come te la sei? È venuta in mente adesso. Fordismo sessuale, bellissima questa, Non è male, effettivamente non è male. Però, insomma, uno che cosa si aspetta da Santoro? Che prenda le intercettazioni, le faccia recitare, prenda due o tre donnette le interviste dicendo chi hai con te? Chi hai con te stasera? Lo sai benissimo chi c'è, sai bene tutto. E chiuda, c'è il grande cerimoniere Santoro, ci sono i suoi cortigiani, lo dico con tutto il rispetto, naturalmente, i suoi commensali, i suoi adepti, quelli, gli inviati, le persone lì, gli ospiti che sono irrilevanti. L'arena, il calore. Diciamo, il nemico da battere, in questo caso Berlusconi, poteva essere Marchionne un'altra volta, o da mettere alla berlina, è il tocco finale del comico, che in realtà fa degli editoriali con martellate nei confronti, in questo caso, di Berlusconi. Ma mi pare evidente. Cosa ci vai a fare, Santanchè? Deve andare a combattere nell'arena. 24% di scena, amico mio. 24%, ho capito, però dopo non protestare, protesta su Santoro. Pure Berlusconi, ho letto delle frasi di Berlusconi che avrebbe detto Berlusconi ai suoi uomini, è una vergogna, è una cosa incredibile, hanno messo in scena persone poco credibili. Può darsi, anzi sicuramente sarà così, però insomma è Santoro, è come quando uno dice è Gasparri, è Santoro, insomma, è così. È la grandezza di Santoro. Se vogliamo, anche la grandezza di Santoro, certo. Daniele da Napoli, Daniele. Eccoci qua. Dica. Mi lascio da 20 secondi precisamente. Sono quelli che ci toccano fino all'intervallo, per cui 20 secondi. Allora, io due presupposti. Prima di tutto, secondo me c'è stata una sproporzione enorme tra le ipotesi di reato che sono ipotizzate a carico del Presidente del Consiglio e i mezzi che sono stati impiegati dalla Procura per una vicenda che ha una scarsa rilevanza penale. Penso anche che questa vicenda si La scarsa rilevanza penale sono concussione e prostituzione minorile, cioè non è che, però sono anche convinto che si concluderà con un nulla di fatto, perché diciamo l'ipotesi è molto labile. Poi i 20 secondi però, sono già finiti, poi? No, però voglio dire anche questo, che in Italia penso che ci sia una buona parte del paese, non tutti, ma una buona parte del paese che merita un po' di più di questo teatrino di mercimonio squallido. Va bene, approfondiremo più avanti. Giornale radio 800 24 00 24, con un tentativo ancora alle 19:15 con Pannella, che magari è arrivato all'aeroporto di Londra. Eccoci di nuovo in onda, caro Parenzo. Eccoci. 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Sentiamo come ci presenta la giornata del TG3, ma ci sono un sacco di notiziole che devo riferire a te e agli ascoltatori. TG3. Depositata dai legali di Berlusconi la memoria difensiva, la procura di Milano incompetente, il premier non andrà dai magistrati. È stata sentita per 5 ore dai PM milanesi Nadia Macri, l'escort che ha parlato dei rapporti sessuali tra ragazze e il premier. Bossi difende Berlusconi ma gli consiglia: riposati, ci pensiamo noi, tempi brevi per un accordo sul federalismo, altrimenti si vota. Il monito del presidente Napolitano: basta esasperare le tensioni tra le istituzioni, il giusto processo è garantito dalla Costituzione. Le istituzioni ritrovino le loro radici morali, insicurezza economica e indebolimento dell'etica, denuncia il Papa, generano insicurezza. Grande folle, commozione ai funerali dell'alpino ucciso martedì scorso in Afghanistan, il lungo applauso alla bara. 3 mesi fa la frana di Massa che ha ucciso una donna e il figlio di 2 anni, il ricordo di chi si è salvato, le ferite ancora aperte sul luogo del disastro. Super, Superman, don't you understand? Ancora Nadia Macri su la ragazza marocchina, su Ruby, parla anche di questo ieri sera ad Anno Zero, tutta. E c'era questa ragazza qui, marocchina, aveva un bel seno, grosso, così, ed era talmente ubriaca che girava per tutta la stanza, no? Col bicchiere in mano e col seno così faceva. Però ha solo ballato. Berlusconi in piscina, nudo con noi. Abbiamo fatto il bagno in piscina con l'acqua calda e dopo ci raggiunse il presidente, ok? Nudo in questa stanza, sì, già nudo. E voi quanti eravate? Eravamo 5-6 ragazze, 5-6, fai anche 7. Lui nudo? Lui entrò nudo. Già pronto, tutti quanti insieme a ridere, a scherzare, a toccarsi, no? Vabbè, insomma, lo sputtanamento globale, devo dire una verità, con Berlusconi già pronto, che non so cosa volesse dire la signora Macri, devo dire la verità, quando si presenta però un'interlocutrice, in questo caso un'intervistata, bisogna dirla tutta, Io non so se sia stato fatto, credo di no, qualcuno l'ha ricordato in studio, bisogna riferire quello che pensano di lei la madre, l'ex fidanzato, eccetera, eccetera, un po' di passato che riguarda la vicenda, la storia di Nadia Macri come escort, come si è presentata, invece viene così data... Che è un testimone poco attendibile. No, io non dico questo, però bisogna pure riferire quello che è stato detto intorno alla Macri, altrimenti sembra così spuntata da nulla, in realtà se ne parla da tempo, non mi sembra sia stato fatto ieri sera ad Anno Zero, ma ripeto, fa parte della drammaturgia di Anno Zero, che si che da questo punto di vista è una sorta di messa cantata, no? Ha un po' smontato però quel quadro che qualche giorno prima era stato invece... Ma che ha smontato? Cosa? La Macri ha smontato? Ma non dire stupidaggine, no, diciamo, la Macri, ha smontato, cioè, quel quadro da Calispera, che è meraviglioso. Ma sono speculari le cose, sono assolutamente speculari. Però ha creato una narrazione diversa, lì sembrava che la signora Ruby Rubacuori fosse, come dire, una monaca, no? Quasi ormai quasi pronta per l'altare, no? Una santa assoluta. Qui adesso noi non sappiamo, questa immagine è molto bella peraltro, di questa piscina calda con lui nudo e queste sette donne che ballano nella della piscina, è un'immagine anche meravigliosa. Ma tu ci credi, vuoi, sul no? serio, ci credi? A questa immagine della piscina? Beh, voglio dire, poco male, ma da ragazzino tu non l'hai mai fatto il bagno nudo con sette ragazzi? Sì, ok, insomma, da ragazzino appunto. Ma non lo so, ma tu l'hai mai fatto? No, con sette donne. No, ma intorno, fossero 7, no. Fossero 12, fossero 25, può essere un divertissement per un ragazzino, per un addio al nubilato, non forse per un presidente del consiglio. Dopodiché, per carità, Mughini, malattia, chi c'entra la vita su queste sciacquette? Mughini. Se non è malattia quello di chi c'entra la propria vita, propria vita privata, il proprio sacrosanto privato, sulle gemelle De Vio, sulla Maristella, sulla Sarcinelli, e non continuo questo elenco agghiacciante di sciacquette senza arte né parte. Non so a chi si riferisce Mughini in realtà, se si riferisce a chi c'entra la vita, cioè a chi parla di queste persone, oppure a chi, a Berlusconi, non riesco, forse a Berlusconi, vabbè. Va bene. Dove andiamo? Vabbè, la Santanchè è scatenata in queste ore, questa mattina ha abbandonato la trasmissione di Vianello, Agorà. Sentitela contro una giornalista di Repubblica, Alessandra Longo. Non dimentichiamo che in questo governo c'è stato un segretario, un sottosegretario che viene considerato persona socialmente pericolosa, mi riferisco a Cosentino. In odor di camorra, in questo ma governo presunzione dell'innocenza, cioè sino sì, vabbè, ma zitta. Perché dice delle cose che Santa sono giurate calpesta e Santa no, zitta, niente, e continua naturalmente. Qua siamo Santa sei che, persone, Santa dove voi l'avete invitata Santa una, che, due, tre, ma guardi, lei non si è ancora espresso, guardi, signore, dove tutti una persona avete civile, iniziato gli interventi, Santa che io facendo la vedere parlare, Santa che il Presidente del Consiglio calpestando nella sua... Santa per cui voglio dire... No, aspetti un attimo, Nardis, perdoni, le do subito la parola. Santa che lei non riesce a parlare. È una vergogna contro Vianello a un certo punto. Allora, scusate, però siccome chiamo in casa la trasmissione, certo, mi perdoni, questa è una trasmissione questa che c'è già stata. Qual è la vergogna? Mi perdoni, qual è la vergogna? La sua sarebbe una vergogna. Sì, allora, mi perdoni, mi deve spiegare perché. Sei persone dove cinque stanno, hanno iniziato la trasmissione, già tutti con una vittima. Faccio parlare poi replico. Scusate, lei è un eolocato. Fatemi dire una cosa. Se me la fai dire, visto che sta attaccando casa la trasmissione, la dico io. Allora, gli italiani vi guardano perché secondo lei quanti sono i casi? Signora, si rilassi, mi parlare, sì, glielo spieghi. Allora, okay. Poi a un certo punto dice lei è ridicolo a Vianello, se ne va, e poi c'è anche uno scontro con Mughini, è interessante, Santanchè versus Mughini. Dov'è il reato? In Italia il reato è lo sfruttamento della prostituzione. Si ricorda che io ho detto prima della voglio provare a intervenire, se ci riesco, che racconta un quadro racconta che molto definito. Ha preso dei soldi che Silvio Berlusconi gli ha regalato in cambio di tre volte di un puttanaio. Parla e descrive. La gente millanta, se vuole io le do l'elenco delle donazioni che fa Silvio Berlusconi, scusa, allora, a tutti quei... Fai la conduttrice? No, la faccio io, Vabbè, insomma. Scatenato Mughini, Sì, Mughini mi sembra anche un po' così, no? Incazzato per quello che ha letto. Sì, lotta come un leone, incredibile. Certo, con la Santanchè non è facile, ma Mughini non è tipo che va sopra... va sopra gli altri, non è che, però comunque combatte l'amico Mughini, combatte. 800 24 00 24, non capisco perché ci sia andato, perché non va mai da nessuna parte, evidentemente. Infatti. Dove andiamo? Alessandro, provincia di Forlì, buonasera. Buonasera. Io volevo intervenire anch'io sulla questione Berlusconi in questo senso. Siccome è l'ennesima puntata della battaglia di Milano contro Berlusconi, alla quale inizia ad avere una certa sua passione, anch'io come voi ho colto la parte comica, mi sono sentito in sintonia con la canzone di Michel Bogia che avete scelto, e volevo dire questo, che quest'uomo continua a dimostrarsi un portento. Dopo la catena di montaggio che la signora Macri ha raccontato. Sì, Alessandro, però lei deve abbassare la radio o spegnerla, perché altrimenti la sentiamo male, grazie. Ecco, il discorso è questo. È riuscito anche a dimostrare al signor Bertolaso come si usa un lettino da massaggi. Però Alessandro, noi possiamo fare tutte le ironie che vuole. La signora Macri non è la verità scesa in terra, Aspetti. Io sto ridendo su questa cosa qui, perché è grottesco tutto. Io volevo dire, l'abbiamo preso veramente sul ridere, e devo dire una cosa, la malattia che è stata riscontrata al nostro premier, io la auguro sinceramente a tutti gli amici a cui voglio bene, che 73 anni abbiano una vita di questo tipo, perché è un fenomeno veramente, ve lo dico con ammirazione, non facendo dell'ironia. No, ma ho capito Alessandro, devo dire la verità, Parenzo, che l'altro giorno Libero ha fatto un titolo, ed era un'intervista a Feltri da parte di Belpietro, che c'è questo escamotage, no? Fino a quando Feltri potrà tornare a scrivere per Libero, e Feltri dice una cosa: gli italiani perdoneranno questo a Berlusconi, magari non altre cose, ma questa vicenda qua gli italiani gliela perdoneranno, proprio forse per gli aspetti di cui parlava prima il nostro ascoltatore. Stanislao da Roma, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Senta, forse sarò il solo, ma io una cosa che veramente mi dà fastidio e non sopporto della corte berlusconiana ultimo modello è la faccia tosta, infinita e sconfinata. E io, dall'evidenza che più o meno emerge da queste carte, indipendentemente dai reati che ci sono, è abbastanza chiara. Per cui continuare come ha fatto la Santa Chea, negare tutto in ogni caso e qualsiasi cosa, significa una mancanza di rispetto infinita verso coloro che ti ascoltano. Perché se ho una parete, cos'è che bisognerebbe scusi un attimo Stanislao, cos'è che invece bisognerebbe dire chiaramente, cos'è che bisognerebbe tra virgolette confessare, cos'è che bisognerebbe raccontare agli italiani? Non mi spieghi? Aspetta, non mi faccio anche lei la Santa Chea, la cosa no, è molto chiara. No, è una domanda, non era critica, non era ironica. L'impianto generale, a parte i particolari e gli eventuali reati, è chiaro. E quindi è inutile che qual è l'impianto? La Santa Chea non ho capito, qual è l'impianto? La Santa Chea che mi dica che è tutto a posto, che lui faceva solo beneficenza, che non c'era niente di male, che erano tutte ragazze brave e carine, che andavano a normalissimi ceni. Se mi si viene a raccontare questo, mi si sta prendendo per il cioè serio. Lei dice che gli esponenti del PDL, scusi un attimo Stanislao, poi devo dare la linea alla borsa, ma resti con noi. Lei ci sta dicendo che esponenti del PDL continuano a negare anche l'evidenza, cioè che Berlusconi si diverta con alcune ragazze, si diverta poi al di là dei dettagli, che si diverta sessualmente eccetera eccetera con delle ragazze. Bisognerebbe ammettere almeno questo, ed è la posizione per esempio qualche giorno fa che esprimeva Filippo Facci sul Libero. Superman, don't you understand? Super Santanchè, si potrebbe dire, oltre che Superman Berlusconi, ieri sera ad Anno Zero, poi anche oggi, in cui dice il canone Rai, basta finanziare con i nostri soldi chi vuole uccidere Santoro, uno schiavo della sinistra. Sentiamolo, Santanchè, ieri sera ad Anno Zero, contro Santoro. Io le crederei, Santoro, se avessi visto una volta nella sua trasmissione l'intervista a Rachele. Ma lei perché, scusi, per lei va meglio la Macri e non va bene Rachele? Perché non le va bene che qualcuno attacchi Gianfranco Fini? No, quella non è la libertà. Quella non è la sua libertà. Lei è schiavo. No, lei non è libero, lei è schiavo. Molto più schiavo di quanto sono io. Lei è schiavo di un'appartenenza. Schiavo di quella sinistra che dà lei il mandato. Lei è della sinistra, figuriamo. The Superman, how'd you feel among the young? schifoso inizio di programma, sempre la Santanchè. Come lei ha iniziato questo programma, uso un termine gentile, è schifoso, perché senza una contrapposizione, perché dando credito a persone che raccontano una storia che lei non ha nessuna certezza, mimare le intercettazioni è schifoso, o meglio è fazioso. Quindi io stasera mi comporto come se avessi di fronte un PM, perché forse lei è migliore di alcuni PM perché è più mediatico. Beh, l'inizio della trasmissione è il solito inizio di anno zero, Anno zero può cominciare. Allora, ragazzi, intervistate. Assassini, porco! Interviste chiaramente a escort di vario tipo che raccontano di tutto. Tra l'altro questa Nadia Macri è stata interrogata oggi dai PM di Milano, i verbali addirittura secretati, ma più o meno avrebbe confermato le cose che ha detto. Ma sì, non capisco, è tutta una follia. Questa Nadia Macri ha parlato già 45 volte in diversi giornali, un'intervista pure al Fatto Quotidiano tempo fa. Cioè, cosa ha detto? C'è una perversione in questo caso. Cioè, arriva un escort, dice sì, Berlusconi ha fatto sesso con 5-6 donne, eccetera, interrogate dai magistrati. Cioè, ti rendi conto? Ma capisci che se non è vero, analizzando seriamente la questione, se non è vero, siamo comunque di fronte a un Premier che viene ricattato. Cioè, è come ripeti sempre tu in questi mesi, lui si è messo evidentemente in alcune condizioni difficili, cioè in un altro contesto, nel 94 mai nessuna di queste signorine si sarebbe alzata, cioè non l'avrebbero presa sul serio. Magari Berlusconi non faceva lo stesso tipo di vita nel 94. Appunto, quindi anche se lui non ha fatto niente, non ha fatto il bagno con queste sette bellissime ragazze, non ha fatto il palo con la lap dance e quant'altro, comunque non era nudo, non si è presentato nudo pronto, come ha detto la Macri. Immagine peraltro meravigliosa Berlusconi. Sì, ma io sono invidioso da morire. Comunque, insomma, andiamo. Sono invidioso, insomma, è una cosa pazzesca. Ma sì, certo, io al ginnasio, diciamo, avrei non pagato, ma insomma desiderato anch'io di essere in una piscina con sette ragazze, no? Ma non è questo il punto, Il punto è che qui, come dici tu, si alza una qualunque e a un certo punto dice. Sì, in questo caso bisogna verificare, perché insomma le cose che si dicono intorno, che dicono anche i familiari intorno a questa signora Macri, sono di grande dubbio, intorno. Stiamo concentrando sulla freschezza delle dichiarazioni della signora Macri. No, vabbè, un aspetto naturalmente. 800 24 00 24, fermo lì, andiamo a sentire. No, è la questione del canone Rai, Santanchè, sciopero canone Rai, sentiamo. Chiedo, e da domani comincerò una firma per uno sciopero del canone Rai, perché siamo stufi di pagare, che i cittadini italiani paghino programmi che disinformano, programmi che mistificano, programmi che sono contro non Silvio Berlusconi e soltanto, ma contro l'Italia. Superman, don't you understand? Va bene, Rino da Prato, buonasera. Buonasera Cusciani, mi sente? Sì, la sento, dica. Senta, su questa faccenda, a me quello che più mi ha colpito è un fatto. Berlusconi altre volte ha giurato sui figli e sui nipoti. Io dico che se mio padre avesse giurato il falso sui miei figli, anche se era mio padre, sicuramente gli avrei messo le mani addosso. Addirittura. Sì. Scusi Lino, come fa lei a giudicare i rapporti tra padre e figlio? Può giudicare i suoi rapporti tra lei padre o lei figlio, ma insomma non può giudicare come si comportano i figli di Berlusconi con Berlusconi. Questa mi sembra francamente una follia. Appunto, no, quello che dico io è questo che mi colpisce, che i figli benestanti, tutto quello, io non sono un moralista, tutto quello che vuoi, ma però non toccare mai me e i miei nipoti. Gli affari tuoi, babbo, falli come cavolo ti pare. Ma che c'entrano i figli di Berlusconi in questo caso? No, io fossi stato nei figli di Berlusconi avrei detto: babbo, i tuoi affari falli come ti pare, però non toccare mai né noi né i miei figli, cioè i nipoti di Berlusconi. Non si può giurare il falso sui nipoti. Sul giuramento, giuro sulla testa dei miei figli, eccetera. È una cosa oscena. ci oltrepassa veramente ogni limite. E le ripeto sulla però Rino, è una frase che a tutti noi è capitato di dire, no? No, giuro su mia figlia, giuro su mio figlio che non ho fatto niente, che non ho fatto questo, sono un bacchettone, cerchi di capire, Cruciani, scusi. Non sono un bacchettone. Ma no, non sono il bacchettonismo, che c'è? Non sono frequentato. Ma che c'entra il bacchettonismo in questo caso? Non c'entra niente. Però non potrei mai giurare il falso né sui figli. Vabbè, ho capito, lei dà per scontato che abbia detto il falso, però abbia pazienza, Rino. Evidentemente per Berlusconi questo giuramento è un giuramento genuino. Cosa vuole che le dica? Mi dice in Toscana che quando suona da qualche parte piove e non può essere tutto che non è vero niente, che non è vero niente. Ma la frase sul giuramento dei figli, non mi ricordo, l'ha pronunciata due volte, non si riferisce a tutto quello che è uscito, si riferisce evidentemente a qualche aspetto. Un processo del passato. No, ma è anche recentemente su qualcosa, ma non mi ricordo insomma, esattamente. Ripeto, io lei ha ragione, non metterei mai in mezzo i figli in queste cose qua, però può scappare a tutti di dire giuro su mia figlia che non ho fatto nulla, eccetera, eccetera. Va bene, Natalino da Mantova, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Ecco, io volevo dire che questo è proprio un caso in cui, al contrario di quel filosofo famoso, invece di guardare la luna dovremmo guardare il dito. Cioè? Perché se noi ci mettiamo dalla parte della magistratura, che vede che c'è un'ipotesi di reato di concussione, rispettando le regole, la magistratura avrebbe dovuto passarla a quella di a un'altra magistratura, quella di Milano avrebbe dovuto passarla ad un'altra, cioè al Tribunale dei Ministri, a che cosa? Tribunale dei Ministri oppure a quella vicina, quella di Monza, non l'ha fatto. Sì, però Natalino, adesso non ci mettiamo in mezzo a queste cose che riguardano il ricorso che faranno gli avvocati di Berlusconi. Ma è importante però. Ma è importante, lei dà per scontato che non ci sia. Scusi un attimo, Natalino, lei dà per scontato che la competenza non ci sia. Io non lo so, può darsi di sì, può darsi di no, non lo giudica lei e non lo giudico io. Non ci mettiamo in mezzo a discutere c'è competenza o non c'è competenza, perché sennò è ridicolo. Va bene, allora. Cioè non arriviamo a una soluzione. Ma non possiamo però noi basare una verità che non verrà mai a galla, perché non c'è nessun giudice sano di mente che va a processare una persona nella sua camera da letto. E tutte queste cose sono illazioni fatte tramite intercettazioni. Ma non potrebbe essere per esempio valida l'ipotesi che un carabiniere solerte vada a queste signorine e gli dica: ascoltate, siete intercettate, se non volete essere disturbate, dite così e così. Ma io non lo so, guardi, Natalino. Però questa ipotesi dovrebbe dovrebbe in qualche modo far pensare a giornalisti di quello che stiamo facendo. Cioè noi siamo quelli che all'uscita di un tribunale dove si torturavano, se ricordiamo nel passato, prendiamo per buone le testimonianze del. Che c'entrano le torture? Chi si torturava nel passato? Ma è la stessa cosa. Cioè, noi prendiamo per buone le intercettazioni. Ma guardi, io non le prendo per buone per niente. Cioè, lei dice che gran parte della stampa le prende per buone. Ma io, per esempio, io non la prendo per buone nella maniera più assoluta. Ecco perché ci vuole molta prudenza. Ma io, infatti, uso. Quello che sta succedendo all'altro Presidente del Consiglio può succedere a chiunque, se noi permettiamo che siano discusse anche questi tipi di informazioni. È quello che voglio va dire. Va bene, Natalino, grazie. Caro Parenzo, abbiamo il sottosegretario alla difesa, Guido Crosetto, buonasera. Ah, buonasera a voi. Come sta? Salve, Crosetto. Bene. Senta, Crosetto, ma Berlusconi sbaglia o no a non presentarsi davanti ai giudici? Per carità, l'inchiesta va avanti, però per esempio oggi su Corriere della Sera leggo un'intervista al sottosegretario degli Interni Mantovano, che certamente non è tacciabile di anti-berlusconismo, il quale dice gli avvocati stanno sbagliando tutto, la strategia migliore a questo punto è quella di presentarsi direttamente ai giudici. Lei da che parte sta? C'è un'inchiesta in corso, la persona imputata può decidere se presentarsi o meno al pubblico ministero e poi aspetta eventualmente se ci fosse qualcosa un processo. Conoscendo il rapporto tra i PM di Milano e Berlusconi, probabilmente i suoi avvocati l'hanno consigliato di non presentarsi. Cioè lei dice il problema è la Boccassini, insomma. Beh, la Boccassini mi pare un po' tutta la procura, la Boccassini è un particolare della procura, sono 17 anni. Quella procura dedica la maggioranza delle proprie energie a indagare su tutto quello che ha a che fare con Berlusconi. Per cui insomma, che sbagliano gli avvocati, come dice Mantovano, o sbaglia Mantovano? questa non sono qua per giudicare sbagliando gli avvocati, quanto penso che gli avvocati consiglino il cliente per il meglio. E poi, al di là di tutto, questo è un cliente che un'idea sulla Procura di Milano se l'è fatta in questi anni. No? Oltre consigli, io fossi in lui non andrei, ma capisco le sue reazioni. L'unica cosa che non capisco, ad essere sincero, di Berlusconi, probabilmente se chiunque altro sui 60 milioni di italiani avesse il suo patrimonio, probabilmente da tempo avrebbe salutato tutti e si sarebbe dedicato ad altro. Attenzione, cioè, questo qua è un consiglio che dà lei a Berlusconi, cioè a questo punto meglio spendere i soldi? Io non avrei avuto neanche un decimo della sua forza, ma non penso nessun altro. Sopportare quello che ha sopportato lui in questi 17 anni, penso pochi altri l'avrebbero sopportato. Qualcuno dice, Crosetto, che sopporta tutte queste cose perché se non avesse più queste cariche, se non avesse più, insomma, se non fosse più in politica, sarebbero in pericolo anche le sue aziende, eccetera eccetera, cioè i suoi stessi averi, lei lo crede, no? Guardi, Berlusconi se nel 94, al posto di scendere in campo, avesse chiamato chi comandava l'allora PC e gli avesse detto va bene, sono con voi, lui adesso avrebbe Telecom, Generali, Team, Mondadori, Repubblica, L'Espresso, qualunque cosa gli sarebbe stato concesso. Lui ha scelto la strada più difficile nel 94, che era quello di andare contro quelli che sembravano i vincitori e che avevano in mano l'Italia, l'avevano dimostrato uccidendo un'intera classe politica. Quindi la scelta facile per diventare ancora più ricco l'avrebbe avuta allora, ha scelto quella più difficile. Senta, ma Diano Zero che ne pensa di ieri sera? A me io non capisco tutte queste polemiche. Il solito Santoro, non c'è nulla di diverso. Grande drammaturgia, rappresentazione di un punto di vista in maniera molto forte, interviste naturalmente in cui una persona viene presentata in un certo modo e non si racconta tutto di questa persona, eccetera eccetera. Non mi pare un Santoro molto diverso dalla trasmissione fatta sulla Fiat o altre trasmissioni su Berlusconi, non capisco lo stupore. Io guardo già Santoro, ma mi aspetto di tutto e quindi tutte le volte non mi stupisco. Cioè, è facile sapere cosa farà Santoro. Santoro sostiene una tesi, nel sostenere la tesi nasconde una parte della verità, apparecchia, diciamo, un grande spettacolo, no, su questa tesi. Quella di Santoro io non la considero più una trasmissione di informazione come altre, è uno show compato, sì. In cui ci sono le comparse, in cui c'è una trama scritta da Santoro e da Travaglio, in cui bisogna sostenere una tesi, è una pièce teatrale che cambia ogni settimana, in cui sono pagati benissimo, tra l'altro molto più di quelli che la fanno a teatro. E fanno anche grandi ascolti, insomma. Ma io, difatti, ma guardi, il semplice fatto. No, una pièce teatrale, è giusto. Parenzo, tu che dici? Pièce teatrale non è male, eh? No, c'è una drammaturgia, come dire, evidente, narrativa in Santoro. Dopodiché il copione, per la verità, non è che lo scrive Santoro, Ruottolo. Beh, insomma, chi lo scrive, se no? Non è che lo scrivo io. In questo caso il copione sono gli atti della Procura di Milano. Beh, sì, d'accordo, cioè, però voglio dire, il materiale è quello, non c'è dubbio. Dopodiché, come viene rappresentato e come viene messo in scena, è evidente che se si prendono delle parti di intercettazioni e non altre, interviste e non altre, è evidente che si vuole dare un'idea. Ma io lo dico, non condannare. Ma l'accusa che si può fare. Ma non è un'accusa, è una fotografia. Ma la valutazione, ma per carità, ma anche l'accusa che si può fare è una valutazione, è quella di dire, insomma, lui ha preso soltanto un filone dell'inchiesta, lo ha messo in scena, lo ha fatto vedere, poi lo ha fatto commentare, oltre che ai suoi, a due personaggi che sono il direttore Belpietro e... Sì, sì, ma quelli che stanno lì sono irrilevanti, cioè, rispetto al gran cerimoniere, ai suoi cortigiani che sono intorno, eccetera, cioè, al comico finale. Quando l'avvocato Ghedini, nonché deputato, prende parte alla trasmissione di Santoro, sì, lì, diciamo, la par condicio è perfetta, perché se vuoi c'è la... Ma quale la par condicio non è per nella presenza degli ospiti, no, non può esistere. La narrazione anche televisiva, la par condicio della narrazione, sì, televisiva è perfetta, perché c'è l'avvocato della difesa che guarda caso è anche deputato, sì, e poi gli atti della Procura di Milano, se proprio vogliamo estremizzare il ragionamento. Sì, sì. E questo è un po' quello che... Dopodiché, dall'altra parte, la Santanchè che dice, ma non credo che Crosetto questo convenga con me, quando la Santanchè dice sciopero del canone, mi fa un po' sorridere, perché voglio dire, allora hanno ragione anche quei telespettatori del TG1 che dicono non paghiamo più il canone neanche noi, perché non ci sentiamo rappresentati dal TG1 di Minzolini che apre sul dramma Tunisia. Cioè, è identico il ragionamento. Sì, no, ma su questo non c'è dubbio. Allora, Crosetto resta con noi. Roberto da Verona, buonasera. Buonasera, Roberto. Gianni. Dica pure. Pronto? Dica. Mi sente? Sì, la sento. Due considerazioni veloci. il proclama che ha fatto Bersani, andrò nelle piazze a raccogliere le firme. 10 milioni. Sì, beh, meglio che raccolga i voti che non le firme. Le firme le lasci raccogliere a Di Pietro. Com'era? Piazze poi... piene, urne vuote. Esatto. Però adesso non è una, non la voglio No, ma io ho fatto una battuta generale per il clima. E poi un'altra cosa volevo dire: quando non ci sarà più Berlusconi, poverino, che prima o dopo non ci sarà più, ma di cosa parleremo? E chiudo, dottor Cruciani. Grazie, andiamo a Treviso, Umberto. Sì, buonasera, dottor Cruciani, buonasera Parenzo. Buonasera. Ma io quest'oggi ero a Verona, perché lavoro a Verona e vivo a Treviso, quindi faccio un po' di pendolarismo settimanale. Sì. E stavamo discutendo a pranzo con dei miei colleghi, diciamo che le idee politiche erano abbastanza miste, quindi berlusconiani convinti, berlusconiani o comunque uomini di destra un po' perplessi, come non... diciamo mi posso professare io, e così via. Su una cosa ci siamo trovati d'accordo poi alla fine, quasi tutti avevamo visto la trasmissione di ieri sera e sono pienamente d'accordo con lei che rispecchiamo il copione classico di Santoro, quindi non ci si poteva aspettare granché di differenza. Un po' guardando, o meglio, ascoltando bene anche le altre intercettazioni di Adel Macri, che se è vero tutto quello che ha detto, vabbè, ci sarà da discutere molto su anche sulle prestazioni. Ma al di là di questa battuta, quello che ci ha poi concordemente lasciato un po' perplessi è il fatto che dalle altre intercettazioni, soprattutto quelle di Mora piuttosto che allora... delle altre ragazze, ne viene fuori una figura di un presidente del Consiglio che sta quasi non volendo ostaggio di queste persone, nelle mani di queste persone. Ma adesso, nelle mani di queste persone. Oddio, non vorrei esagerare, ecco, forse esagero. Ho capito perfettamente. Però la ringrazio, sicuramente Umberto. Sicuramente ne viene fuori. Mi scusi? Sì, no, ho capito perfettamente. Senta Crosetto, le voglio chiedere una cosa. Prima lei ha detto, insomma, fossi in Berlusconi me ne sarei già andato da un pezzo. Sarei andato adesso in esilio, lo dico io, insomma, avrei già abbandonato la partita con tutti i soldi che ho, magari ad Antigua. Leggo oggi un'intervista sulla stampa Rino Formica, il quale dice: c'è una via d'uscita a questa crisi così brutta? Una via ci sarebbe. A me fa paura affrontare la maniera di un tribunale stalinista, ma lo ha detto la famiglia. L'uomo è malato, bene, dovrebbe farsi curare in una clinica svizzera. Lo dice Formica, non è che ex esponente socialista, la Prima Repubblica. Nessuno riesce a dirgli Silvio un passo indietro, chiede Fabio Martini. Risponde Formica: il problema è dove mettere Berlusconi. Il CLN offrì il governo Badoglio, Togliatti fece l'amnistia, ora il sistema dovrebbe chiudere la stagione con una fuoriuscita dolce. Mediaset non si tocca, i beni non si toccano e lui se ne va ad Antigua. Lei che dice? No, guarda, io dico fantapolitica, cose così impensate. Guarda, io dico una cosa che è un ragionamento che io innesco sul ragionamento di questi giorni. Sì. Io, come sa, non sono un berlusconiano di quelli della prima ora che hanno visto in Berlusconi il salvatore fin dal 94. Io ho una passione per la politica, anche se faccio l'imprenditore. Ma sì, sì. A Berlusconi riconosco una cosa fondamentale: è l'unico leader in Italia. Vede, il futuro non sarà più. Il futuro, faccio un ragionamento un po' complesso: il futuro non sarà più come il passato. Non troppo. Lo scontro è tra paesi. L'economia e i PIL si formeranno in uno scontro tra paesi. La Germania crescerà a scapito dell'Italia, la Francia cercherà di crescere a scapito della Spagna o dell'Italia. Questo è il futuro. E i paesi conteranno qualcosa nel mondo anche in relazione al fatto di quanto contano i loro leader nel mondo. Si può pensare a cosa si vuole di Berlusconi, ma l'unica persona adesso in grado, nonostante tutto quello che abbiamo fatto noi per farglielo perdere, di avere un peso internazionale, e Berlusconi. Però mi scusi, non è che si può pensare che senza Berlusconi l'Italia non esisterà nel prossimo, nel prossimo futuro, cioè nei prossimi mesi, nel prossimo anno. Ma non è che Berlusconi non esisterà l'Italia se non, appunto, non esisterebbe se non ci fosse, ma che è una risorsa che stiamo sprecando. Straordinaria, secondo me, è un giudizio fuori dalla politica. Stiamo sprecando per la sua capacità di contare, di essere. Ecco, ma qualche responsabilità in questa vicenda, responsabilità per la sua vita personale ce l'ha o no, Crosetto? Me lo dica sinceramente, poi devo dare la linea alla pubblicità. io non ho mai giudicato nessuno, però? Dall'altra parte quando facevano sulle cose personali, guarda, nella sua vita, beh, io in casa mia faccio cosa voglio. Ma sì, d'accordo, però il privato in alcuni casi è anche pubblico, in questo caso credo che ci sia molto di pubblico nel privato di Berlusconi. Scusate, però se mettessero delle microspie nelle nostre camere da letto, ma io non faccio più per uomini, magari facciamo delle brutte figure. Io non vorrei essere giudicato, non vorrei che nessuno fosse giudicato sul comportamento che ha in camera da letto. No. Torniamo anche con lei tra un istante. 800 24 00 24. Questa è la Zanzara anche con gli ascoltatori. Le zanzare di casa mia si nutrono. Eccoci qui, caro Parenzo. Che fai? Che fai? Dove sei? A Roma? Sono a Roma, ma sono, come dire, veramente costernato per questa notizia che ho appreso poco fa. Che notizia? Delle ragazze di via Olgettina, sì, che sono state sfrattate. È di ieri la notizia, però, sei in ritardo. Sì, ma l'ho appresa ora. Non è sicuro ancora. Non è sicuro. Non è sicuro, ma io faccio un appello dalla radio. No, adesso no, in viaggio, non posso ascoltare questo. Appunto, approfitti, ma io lo riferiscono però. Ma è un dramma nel dramma, no, scherzi, ma ti rendi conto? Ma che queste dramma, ragazze dramma? Non lo so, vengono... non mi interessano questi dettagli, quelle sfrattate per il decoro sfrattate del condominio. Non c'è, ma decoro, ma chi decoro? Se ne frega, chi se ne frega? Ma come chi se ne Calderoli, frega? Calderoli dice, Calderoli, preferisco guardare i contenuti, le polemiche durano come un gatto sull'Aurelia, non hanno vita lunga, povero gatto, insomma, chissà gli animalisti, insomma. Comunque dice che le polemiche dureranno poco, come un gatto sull'Aurelia. L'immagine è orrenda, cioè, l'immagine di Calderoli è terrificante. Devo dire. Ha parlato anche Galliani di Berlusconi, il plenipotenziario del Milan. Berlusconi è un leone, supererà anche questa. L'immagine del leone, dico, dopo le dichiarazioni fatte dalla signora Macri, vere o non vere che siano, per carità, messe all'interno del tritacarne mediatico, non è proprio il massimo oggi. Berlusconi è un leone. Un leone non nella savana, però, ma in uno zoo. Quindi sai che i leoni che sono chiusi. Supererà anche questa. Conosco molto bene il presidente Berlusconi, lo ammiro, lo stimo, gli sono affezionato e grato. L'ho conosciuto il 1 novembre del 79, addirittura si ricorda il giorno. Lo considero non un grande, di più. Quindi i commenti sono inutili. Ebbene sì, insomma, evidentemente i commenti sono inutili, e allora perché li fa? E c'è qualcuno che a Milano raccoglie firme contro la Minetti, addirittura dei giovani del PDL, una consigliera di zona, tale Sara Giudice, che mi dicono sia stata ospite anche durante una trasmissione di Gad Lerner, che ha 25 anni e che è figlia di un consigliere comunale del PDL, che dice che la Minetti si dovrebbe dimettere. C'è la questione Minetti, signor Crosetto, cioè, insomma, adesso non possiamo sfuggire a questa realtà. La signora Minetti cosa ha fatto per essere messa nel listino bloccato per volontà di Berlusconi? Io credo che no, o no, qualcosa il signor Crosetto me lo dice per mantenere le distanze. No, per carità, sto scherzando. Guarda, non lo so, non conosco la Minetti, darei un giudizio affrettato. Vede, il listino è fatto perché ci siano delle persone che non sarebbero elette coi voti, con la preferenza, che non conosciute, per portare delle altre esperienze. Penso a Minetti, dove sei. Che esperienza porta? Tra i giovani. Tra i giovani. Ma anche in Piemonte abbiamo messo tra i giovani, giovani, delle ragazze giovani, cioè. Quindi non è. Però non è che è lì per caso, adesso Crosetto, questo mi sembra scontato. Adesso, dopo quello che abbiamo letto, per carità, al di là io non credo che la Minetti possa essere accusata di induzione alla prostituzione, né che Mora e che Fede siano dei papponi che fanno traffico di prostitute a favore di Berlusconi. Quella è un'accusa, secondo me, assolutamente ridicola, me ne prendo la responsabilità. Però, insomma, certamente la Minetti non è che rappresenta i giovani, ha conosciuto Berlusconi in un certo contesto, adesso non voglio approfondire, e viene messa lì per volontà di Berlusconi, punto. Ma guarda che normalmente nei listini tutti quelli che sono messi per volontà e scelte di sì, qualcuno. Sì, d'accordo, però i meriti dove sono? I meriti dove sono in questo caso? Cioè, quali sono? Un minimo di curriculum, ma dico. Ma rappresentare un pezzo di società. Non posso giudicare una persona che non conosco, non lo farei mai, non l'ho mai fatto in tutta la mia vita. Però, scusi, se io devo mettere qualcuno a rappresentare i giovani, normalmente metto qualcuno giovane. È difficile che abbia un curriculum alle spalle. A parte che non è giovanissima. Però le giro la domanda. Rispetto a quello che lei ha letto e ha visto oggi, la ricandiderebbe ex post o no? Non ho visto nulla oggi. No, oggi, in questi giorni, insomma. Ma oggi, quello che ha letto sui giornali questi giorni. Ma sa, il mio problema è che mezze le cose che leggo sui giornali. Anche lei non legge nulla, come altre persone che abbiamo intervistato. No, io ho dormo poco, quindi sono, quando ho tempo, quando non lavoro leggo, quindi leggo anche i giornali. Però il problema è che quello che leggo sui giornali, visto che conosco molte volte i fatti, le vedo trascritte sui giornali, non riconosco i fatti, ormai mi fido del 50% del 20% di quello che leggo sui giornali. E quando questo arriva alla carta giudiziaria fatta dalla Procura di Milano, gestite che non dovrebbero uscire, che sono gestite perché qualche membro della commissione va col registratore e l'ha detta, altra cosa di cui nessuno si occupa, quelle carte sono trasferite da una procura alla Camera e le abbiamo tutti, no? Su tutti i siti internet, però questo ormai in questo paese. Ma vogliamo provare insieme il numero di telefono di Berlusconi, che è stato incredibilmente, secondo me, questo bisogna dirlo, Parenzo, anche tu che sei dalla parte dei magistrati. No, che dalla parte dei magistrati, guardo con, come dire, con rispetto a questa inchiesta, cerco di capire come va a finire. Anch'io non credo davvero difficile provare il reato di induzione alla prostituzione, credo anch'io sia difficile. Crosetto, che voleva dire, Parenzo? Parenzo, che mi è simpatico e che conosco da tempo, ma sul serio, questa è un'inchiesta seria? Se l'inchiesta è seria lo si saprà soltanto quando il GIP un domani deciderà sulla base delle prove raccolte per inviare a giudizio o meno Berlusconi, come prevede il codice. Parenzo, lei veramente adesso proprio come se fossimo al bar, cioè, ma lei pensa che una procura indaga un anno, fa entrare i poliziotti nelle case con le pistole, perquisizioni, intercettazioni, e sappiamo tutti che non c'è nulla e non ci sarà nulla di penale, cioè a Milano non ci sono altre cose più. Beh, sulla concussione si può discutere. Non c'è la mafia, non ci sono persone che magari in politica da una parte o dall'altra rubano, cioè non ci sono cose più serie di queste cose. Ma per carità di Dio, ma lei sa meglio di me che però nel nostro sistema è, mi sembra piuttosto garantista, per cui quando si è trattato di assolvere il presidente Berlusconi o per prescrizione o per altre ragioni, si è fatto. Quindi con grande serenità. Però Parenzo, si può dare anche un giudizio sull'iniziativa dei magistrati, lo si dà tante cose anche sull'iniziativa di una procura, non è che... Ma lo si può dare, detto questo, io lo so come la penso, Crosetto, su questo, penso che ci siano un gruppo di magistrati che hanno di mira Berlusconi e che lo vogliono politicamente uccidere, questo è quello che penso io. Dopodiché, è vero o no, Crosetto, che in questo caso Berlusconi ha offerto molto materiale ai magistrati, che ha messo la testa così sul piatto, è vero o no? Però scusatemi, il materiale è la vita privata. Se anche fosse vero, ma io penso che per un presidente del Consiglio, Crosetto, non deve uscire nemmeno un'intervista di una che dice che è andata a letto con lui, vero o falso che sia, non deve uscire, perché in altri paesi non esce. Questo è il punto. Allora questa è un'altra cosa. No, in altri paesi non esce perché nessuno si occupa di queste cose. No, non è vero, se ci fosse qualcuno che dice sono andato a letto con Obama, il giorno dopo ci sarebbero il New York Times che intervisterebbero questa persona, cioè non è così. Potrei citare grandi leader europei, grandissimi leader europei di grandissime nazioni europee, che per tutta la vita avevano la passione delle donne e hanno frequentato decine. Benissimo, ma non l'hanno fatto sapere, erano bravi a proteggere la loro vita o i servizi segreti o chi intorno a loro. Solo per capire, ma Berlusconi, i magistrati di Milano sono in grado di dire Berlusconi quando fa la doccia, quanti minuti dura? Ce ne sembra una cosa normale. Quanti minuti dura cosa? La doccia o il rapporto del sole? La doccia. Al di là di questo, però, c'è un problema diverso, che non è quello della pervicacia di alcuni magistrati nel voler inseguire Berlusconi. Quello, secondo me, è fuori di dubbio, è solamente una persona faziosa, non riconosce una cosa di questo tipo. C'è però il fatto che quando uno fa il presidente del Consiglio, tutto quello che fa nella vita privata diventa pubblico per impedire che diventi pubblico, o diciamo restringe le serate piccanti o la frequentazione di certe persone, le limita al massimo, e comunque in ogni caso fa in modo che non esca una virgola mai, o no? O sbaglio? Scusatemi, ma voi date per scontato che sia vero quello che è uscito? No, cioè, voi dite non deve uscire nulla di privato. Qua stiamo dando peso da giorni, 6-7 pagine sui le prime pagine dei principali, delle cose di persone a cui nessuno di noi darebbe credito se non fosse che parlano male di Berlusconi. Ma io infatti non so, allora io faccio una dichiarazione. A parte che non è vero che parlano male di Berlusconi, parlano bene e male a seconda dei casi. Sconvolgo Parenzo, io adesso dico in radio, non è vero. Scusi, Bindi mi ha violentato quando avevo 17 anni. Ma non è così. E allora no, continui questo ragionamento. No, scusi, dico, la Bindi mi ha commentato quando avevo 17 anni. Adesso io ho qualcosa da perdere, ho un nome, ho una storia, quindi non posso dirlo. Se io non ho niente da perdere, ci fosse un quarantenne che vuole finire su tutti i giornali e avere fama, adesso dice, la Bindi mi ha commentato quando avevo 17 anni. Usciamo per una settimana sui giornali, poi scopriamo che è un millantatore, intanto l'abbiamo mandato in tutte le trasmissioni televisive, in tutti i giornali, e da domani guadagnerà 100-150 mila euro. Ma è un esempio sbagliato, perché un po' carino a intrattenersi nelle discoteche. Ma è un esempio sbagliato, Crosetto, perché queste lei non mi potrà dire che queste qua erano solo scene, come sento. Non è così. No, ma io so, guardi, non so, adesso non è che stiamo parlando di Madre Teresa di Calcutta che sta accusando il premier di averla violentata. Io ho letto intercettazioni di telefonate tra ragazze in cui dicono di tutto, ma se lei intercettasse cosa si dicono i ragazzi, o i ragazzi che dicono guarda che sono stato con quella là o con quell'altra, vedrebbe che il 30%, sì, no, ma questo 20%, è vero, questo è il 5% delle cose sono balle. Allora, invece, quello che dicono queste signorine è il verbo, c'è la Bibbia. No, cioè, questo secondo la procura, naturalmente. No, no, le ricordo solo un fatto, onorevole Crosetto. Il primo, diciamo così, a quasi avvalorare la tesi, che Berlusconi sarebbe stato con qualcuna, fu proprio l'onorevole Ghedini, che addirittura per il caso D'Addario inventò la formula dell'utilizzatore finale, con questa felice formula, escludendo qualsiasi tipo di reato. Ovviamente, no? Cioè, non sapeva che era una prostituta, semplicemente utilizzato. Guardi, Parezzo, io non sto sostenendo la tesi che sarebbe difficile da sostenere che Berlusconi ha fatto voto di castità. Ah, ecco. No, ma infatti non è reato fare un bagno con sette ragazze, ma è una meraviglia assoluta. Non l'ha fatto nessuno, cioè, altrimenti faremmo altro, avremmo un vestito nero e diremmo una messa. Nessuno di noi l'ha fatto. Quindi non sto dicendo, no, guardate Berlusconi, non sto dicendo quello, sto dicendo che questa cosa che è venuta fuori, che sta occupando tutta l'Italia, la politica italiana, tutte le pagine dei giornali, mi sembra eccessiva per le risorse che sono state fatte. Non credo neanche al 5% delle cose che ho letto. Stiamo dando credito a delle persone a cui nessuno di noi nella propria vita privata darebbe credito. E andremo avanti un mese e mezzo, facendo cosa? Facendo male a Berlusconi. Senta, un'ultimissima cosa, lei non crede nemmeno che ci siano state delle pressioni di Berlusconi per far liberare o per far affidare questa ragazza di 17 anni a Nicole Minetti, eccetera? Questa è un'ipotesi seria su cui i giudici devono verificare, o nemmeno questa? Io penso che i giudici debbano verificare se è qualcosa di grave, se anche fosse vera. Io penso di no, ma se anche fosse vero che una telefonata deve far fidare una a una persona, non è concussione, gli ha fatto qualcosa di male. C'è un'ipotesi che potrebbe essere quella della concussione. No, ma concussione con chi? Il concusso non si sente concusso. Però effettivamente questo, quello che dice, quello che sta dicendo, non ha niente da dire. Ma scusate, ma ci sarà una parte lesa che si rivolge all'autorità giudiziaria sul concusso? Ieri sera Belpietro, un attimo solo, c'è la pubblicità, però ieri sera Belpietro, durante Anno Zero, ha detto, questa storia che ci sarebbe il concussore, e però né il capo di gabinetto del questore né la dottoressa Iafrate sono mai stati indagati né hanno un procedimento disciplinare, è una cosa da considerare. Cioè, c'è un concussore, ci sarebbe un concussore, e i concussi che fine fanno? Io non so se giuridicamente si possa configurare il reato di concussione senza avere il concusso, però certamente è una cosa curiosa. Le zanzare di casa mia. Allora, eccoci qui. Secondo l'Economist, caro Parenzo, Berlusconi è il premier, il presidente Dupilu, riprendendo il film di Scelto Qualunque. Secondo Giulia Bongiorno, invece, finiana, Berlusconi, questo è un argomento che mi fa impazzire, che non riesco a capire, ha calpestato la dignità delle donne con le sue parole, i suoi comportamenti, ha inferto una ferita, oggi c'è un articolo credo su Repubblica, una ferita a tutte le donne italiane, alle donne che studiano e lavorano, a tutte noi che facciamo fatica un giorno dopo l'altro, alle donne che per raggiungere ruoli di rilievo non soltanto a certe feste non ci sono andate, ma hanno semmai dovuto rinunciare a vedere gli amici, a quante invece di cercare scorciatoie hanno percorso con dignità la strada dell'impegno e del sacrificio. Vabbè, ok, mica sbagliare. Ma lo so che per te non ha sbagliato. Io no, questo dell'immagine guarda. Della donna che ha Berlusconi, cioè questa sorta di indagine psicologica sulla mente di Berlusconi, questo. Quello che non lui ha in mente delle donne mi fa impazzire. È una cosa alla Concita De Gregorio, alla Lidia Ravera. E c'è anche Livia Turco oggi. Prendetemi un po' quest'audio. Livia Turco che dice una cosa di questo tipo. Negli audio che abbiamo, guarda che il punto è solo politico, non è morale. È appunto, ma lo smettano con questa nulla. Storia con questa storia dell'immagine che Berlusconi dà dell'uso del corpo delle donne, che è una stronzata. Ma può fare l'uso che vuole, ma non è vero. No, ma questa cosa psicologica, questa è una stupidaggine. Questa, io non la condivido. È una condivido grande battaglia di Gad Lerner, una persona molto intelligente che non capisce. A Turco, ma ce io infatti non sono d'accordo su questo. Però, se in questo paese per avere una casa devi, stando alle carte, andare ad Arcore e fare il bagno. Ma chi? Ma che questa calda. È una tua raffica. Che significa per avere una casa devi andare ad Arcore? Ma che dici? Ma questo dai, è su. Un problema. Se per avere un lavoro devi andare là dal sovrano, è un problema del sistema paese, come no, ma sei economisti. Un pazzo quando dici una cosa pazzo, del genere. Ma che così. Dice? Esiste da è che così. Mondo il mondo esistono le persone che vogliono lavorare in televisione, che vanno dai miliardari a farsi dare il lavoro? Io non ma dico che va. Uno. Ma che cosa? Guarda, questa è una forma feudale, ma no? Che significa una forma feudale? È qualcosa che esiste, che è sempre esistito, che esiste ed è sempre esistito. Tu vuoi eliminare la realtà. Vuoi eliminare la realtà, ho capito. No, io vorrei che questo paese funzionasse nel suo tessuto economico un po' meglio. Cioè, no, ti rendi conto che oggi Piero Ostellino, uno che dice delle cose controcorrente, condivisibili o meno, pare che abbia dovuto replicare a 51 giornalisti del Corriere della Sera che si erano indignati per il suo pezzo del giorno prima. Ma ti rendi conto o no? Quando uno ha un'idea leggermente diversa dal mainstream, leggermente diversa dalla corrente, eccetera, si deve spiegare davanti ai soviet. Si deve spiegare davanti. Ma una cosa, cose da pazzi. Pur non condividendo quello che ha scritto Stellino. Ma io condivido sempre al 100% quello che dice Stellino. Per cui al 100% a prescindere. Appena scrive, condivido al 100%. A prescindere. No, non fosse altro perché Ostellino, per tutto quello che è stato, per quello che dice, anche se ognuno di noi è naturalmente imperfetto e può commettere gli errori, io comunque condivido. Perché poi quando sento gli attacchi, poi condivido comunque al 200% quando sento gli attacchi. No, ma questo è giusto, certo, figurati. Ma che si debba appunto giustificare, beh, questo è incredibile. Sono d'accordo con te, questo non va bene. Traffico, torniamo subito. Le zanzare di casa 800 24 00 24. Onorevole Grossetto, però insomma c'è la vita sessuale di Berlusconi è un problema ormai pubblico, c'è poco da fare, che lei voglia o no, o sbaglio, perché lei non vuole ammettere almeno questo? Non ammetto quello perché ammetterei veramente una cosa assurda. Cioè, a me interessa cosa fa Berlusconi, Presidente del Consiglio. Cioè, mi interessa quali sono le manovre che facciamo adesso per cercare di tenere in piedi questo Paese. Mi interessa affrontare i problemi tutti i giorni. Ieri c'era una notizia, quella del 23% sugli affitti, che è una cosa importante, dovrebbe cambiare perché l'affitto, la deducibilità degli affitti. C'era un trafilettino piccolo sul Corriere, nascosto, perché tutto il resto era rubi. Ho capito, però non è che l'ho portata io a Rubi, qualcuno in qualche modo ci è arrivata a Villa Certosa, là, no, dov'era? Ad Arcore. Però faccia attenzione, io ho fatto sugli scandali sessuali precedenti, parlo di quello di un ex portavoce di Prodi e di quello di un presidente di regione. Feci ma non c'era nessun scandalo su Prodi? Che la vita privata delle persone non mi interessava, cioè vale quando si parla di loro, vale quando si parla di Berlusconi. Non mi interessa, io chiedo a chi governa di occuparsi del governo. Ho capito, governo. Però succede, lei sa benissimo, conoscendo la politica in tutto il mondo, che spesso i governanti sono stati travolti anche da questo tipo di scandali, cioè non è che sono estranei alla democrazia questi scandali, cioè la vita privata dei potenti. Il più grande presidente americano, quello ucciso a Dallas, John Fitzgerald Kennedy, aveva un'intensa vita sessuale. Gli americani non l'hanno cercato di distruggerlo perché si rendevano conto che avevano un patrimonio da difendere. Ci sono state le polemiche, ma non c'erano giornali che per mesi, settimane, inventavano cose che poi morivano, dopo un mese si scoprivano che erano esistenti. Sì, però adesso lasciamo perdere i giornali, che il cui ruolo è comunque importante. No, perché i giornali, pongo il tema dei giornali, perché avendo letto i giornali di oggi, Famiglia Cristiana, Dichiarazioni di Bagnasco, no? Sì. Sull'esempio, sì, lasciamo perdere, è come i giornali o le televisioni rappresentano un fatto. Cioè mio figlio ieri mi chiama e mi dice, papà, che ha 13 anni, ho ascoltato Rubi che ha detto che non è vero niente. Ma io non voglio che mio figlio, che ha 13 anni, ascolti per interesse Rubi alla televisione. Eppure c'è Rubi alla televisione. Anche a Canale 5. Ma chi la manda? Sì, ma Rubi o altre. E chi la manda? Cioè, quindi è il riflesso mediatico che vogliamo dare a un fatto che fa sì. diventare il fatto importante. No, certo, ma su questo non c'è dubbio. Però ripeto, non è che in questo caso, al di là delle scivolate, delle cose di cattivo gusto, cioè, che pure ci saranno state e ci saranno sempre, queste persone qui non le ho invitate a casa mia, cioè hanno partecipato a qualche cena, a qualche festa. Se poi parlano, al di là delle intercettazioni, se poi parlano dicendo Ramin 6, 7, quella si è spogliata, io forse ho fatto sesso, forse no, qualche problema sulla gestione, io dico sulla gestione, lasciamo perdere la questione della moralità, sulla gestione della vita privata, che non è solo vita privata, ci sarà o no? Beh, senta, però posso essere sincero, io sì. se fossi libero e single e invitassi qualcuna come quella di cui ho visto le foto a una festa a casa mia e questa venisse non obbligata, ma io sarei ben contento. Prima Parenzo ha fatto la battuta, evidentemente sarebbe stato contento anche lui. Ma molto contento. Quindi, ma io non faccio lei non fa presidente del Consiglio. Non una coercizione, ha un invito, viene a casa mia. Cioè, quindi è un altro discorso. Poi si capisco che si lamentino la Buongiorno e la Bindi, se posso fare una battuta, no. Perché se io voglio fare una festa e divertirmi, difficilmente invito la Buongiorno e la Bindi, ma anche Parenzo, per quanto apprezzi intellettualmente sia una o l'altra, se devo fare una festa, le ultime due persone che invito sono la Buongiorno e la Bindi. Su questo però scusi Crosetto, qui è un po' cattivo, guardi, ho detto, le apprezzo intellettualmente, cosa vuol dire? Facciamole pure tutte e due sante, ma non le invito a una festa a casa mia se voglio divertirmi. Ma dipende cosa c'è della festa, voglio dire. In modi particolari, se voglio fare una, essere allegro, ballare, cantare, ridere, non invito la Bindi a casa mia, invito Parenzo piuttosto. E non ho attitudine sessuale. No, questo però mi diverto molto di più con lei. Però perché non? Lei è una persona, voglio dire, davvero intellettualmente onesta, cioè non ammettere, io capisco anche uno ha un ruolo politico, per carità, non ammettere che c'è un problema oggettivo, c'è un problema oggettivo di gestione, e questo glielo dice, no? Certamente uno che non è anti-berlusconiano, di gestione della propria vita privata in rapporto al pubblico. Poi Berlusconi, però ogni tanto dovrebbe smettere di essere Berlusconi, quello che dico io, o no? Io le do ragione in questo senso, dicendo che Berlusconi non nasconde nulla e non cerca di nascondere nulla, e questo è, dal punto di vista politico, come dice lei, una cosa probabilmente sbagliata, ma Berlusconi è quello. Una delle grandezze di Berlusconi è il fatto che è una persona che dice quello che pensa, fa quello che dice, cioè non nasconde nulla. Però non è un po' fissato col sesso da un po' di tempo a questa parte, prima non era così. Se posso fare un discorso un po' più romantico e meno mi faccio vedere romantico e meno sessuale come fa lei, e dico, io capisco che una persona che lavora il tempo e le ore che lavora Berlusconi e che ogni tanto si senta solo abbia bisogno di svagarsi e compagnia, io lo trovo normale, soprattutto dopo che un rapporto è andato male come quello che è stato il suo matrimonio e che alla fine magari si trova in una villa enorme come quella di Arcore a guardarsi in faccia da solo quando ha un attimo libero, che voglia staccare la mente e sia più facile staccarla con non con un intellettuale con cui parlare di politica, non con la Bindi, economia, ma qualcuno con cui vive rilassato, raccontare a barzellette e sorridere, che siano amici, che siano ragazze, che siano donne, io non ci trovo niente di strano. Crosetto, battuta per battuta, si può capire Berlusconi che dopo serate passate con Bondi dice datemi Rubi a cena, questo vuol dire sa va san dir, perché passare allora, serate tutto, scusi, qualcuno non doveva controllare meglio la carta d'identità di questa ragazza, Crosetto, non c'era qualcuno che doveva controllare meglio la carta d'identità. Ma questo rientra nella umanità all'eccesso di Berlusconi, cioè? Che non controlla nessuno. Lo faccia fare a qualcun altro, mica lui deve controllare. Uno può pure invitare 20 persone per fare 1000 bunga bunga, ma faccia controllare le carte d'identità o sì, no? Però lei sta parlando di una persona che non è normale nella sua umanità. In che senso, guardi, scusi? Io come sta, stando in quest'ora che passo con voi, normalmente sto 15 ore al Ministero della Difesa, venerdì, sabato, domenica, e lunedì scorso ero in Afghanistan, era a fare il mio lavoro. Io quando chiamo Berlusconi o mi risponde subito per qualunque problema lo chiami, o mi richiama nel giro di un'ora. A che numero, scusi? No, perché voglio... A quel 335 che si è visto. A quel 335 che si è visto. Tramite Palazzo Chigi. Ho conosciuto gente con incarichi molto meno importanti di Berlusconi, ma che non richiamava nessuno. Però anche le prostitute brasiliane, prostitute, insomma, adesso non voglio esagerare, anche ragazze brasiliane per strada chiamano Berlusconi direttamente come lei. Questo non le fa un po' impressione? Che lei può chiamare Berlusconi e Berlusconi richiama, ma anche una signorina brasiliana per strada davanti alla questura di Milano chiami Berlusconi e ottenga risposta dopo qualche secondo? Non la colpisce questo fatto qua? Guarda, io in questi 10 anni ho visto Berlusconi rispondere a lettere o telefonate di persone in cui la maggioranza degli intellettuali di questo paese o dei giornalisti di questo paese non dedicherebbero neanche uno sguardo. Vabbè, quella è politica, però è consenso. Non è politica, no, quella è umanità. Io mi sono stato da coordinatore del giornale del Piemonte, sono stato investito Berlusconi, da Berlusconi personalmente, di ti mando una lettera che mi ha scritto una signora di che è rimasta senza marito, senza lavoro, con 3 figli, ti mando questa cosa qua di questa famiglia, questi problemi. Io queste cose in questi anni ne ho ricevute centinaia. Vabbè, però, Berlusconi qua non è mai intercettato. Però devo dirle, devo dirle... Come vada Don Gelmini e gli lascia 10 milioni di euro, non è mai stato intercettato. Però l'aspetto dell'umanità, della generosità di Berlusconi, che è stata raccontata in questi 15 anni in tutte le salse, in realtà non è vero che non è stata raccontata, Crosetto. Ma insomma, è stata raccontata anche questa. Devo dire che però non ha nulla a che fare dell'argomento di cui stiamo parlando. È stata rispolverata in questi giorni, per carità. L'umanità che cosa significa? Accogliere questa ragazza in casa per qualsiasi motivo è una questione di umanità. Non mi dica così, perché non ci credo che lei mi dice così. L'umanità significa essere un grande uomo, lo significa essere nelle cose positive. Vabbè, quello, sai, quello è il suo giudizio. Anche in queste cose, sbattersene. Il fatto di sbattersene del giudizio nel fare queste cose rientra nella grandezza di Berlusconi. Lui dice: io nel mio privato faccio cosa voglio. Cioè, se non faccio niente di male, se non uso violenza alle persone, anzi se le tratto da anche signore, pagarle? Anche signore, pagarle? Anche pagarle? Questo l'ha escluso. Ma no, l'ha escluso, i pagamenti ci sono adesso, le buste ci sono, le discriminazioni con le buste ci sono. Guardi che per me non è un reato, non è un problema. Cioè, dopodiché non ci può dire che queste persone non vengono per un interesse, che non ci sia un dout des, o sbaglio? È una scelta di queste signore. Cioè, un dout des. Cioè, queste persone perché ci vanno? Come si è letto, se sono vere, in alcune esercitazioni, ma siete queste signore. Quando io leggo una che dice: oh, questo magari si incazza, finisce la festa, rubiamo qualcosa in casa. Quelle le sembrano persone che vengono sfruttate da qualcuno. Questo è il punto. No, ma non vengono certamente sfruttate, per carità. Ma appunto per questo, però, voglio dire, il dout des c'è, ma al di là della questione dei reati, c'è un passaggio di. Se vogliamo amplificarlo, un dout des c'è in ogni rapporto. Sì, no, ma questo non c'è dubbio. Per quello carità. Del mio, certo. col mio compagno di partito, del suo col suo direttore. Di anche paretto, del, mio, anche del suo, nostro con lei in questo momento. Lei, cioè, sì, sì, no. Di tutti, cioè nella vita quotidiana c'è un dout des nei rapporti. Sì, però non c'è. Lei capisce la stranezza del fatto che io invito. Io a me organizzo, quando stavo a Milano, organizzavo sempre delle cene, ma mai mi era poi capitato di dare 1.000 euro a una ragazza che era venuta a cena a casa mia quando stavo in Viale Monza. Anche perché non ce l'avevi, insomma. Anche perché non ce l'avevi. Anche perché non le avevo, stava a sapere. Però, vabbè, così. Devo chiudere che c'è la pubblicità, la ringrazio molto, grazie. Simpatico comunque. Grazie a voi. Grazie, molto simpatico. Grazie a Guido Crosetto, sottosegretario della difesa, esponente del PDL, piemontese. Borsa? Sì, borsa. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Eccoci qui, fra poco torniamo agli ascoltatori. 800 24 00 24. Ci sono nuovi audio che riguardano la Macri, credo, sempre dall'intervista ieri di Anno Zero, che riguardano Ruby, ma dopo le manderemo. Collegamento però speciale con Massimo Cacciari, buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Parlo con Schopenhauer? Professor Cacciari, perché fa così? Chi parla? Pronto, Schopenhauer? Qui è la zanzara, l'abbiamo chiamata la zanzara, prima. La zanzara, no, tutte le volte. Per cosa mi telefona adesso? No, perché ho letto sul Corriere della Sera, professore. No, già uno che inizia con il no, mi telefona? No, perché inizia con il no? No, ecco, nel senso che ho letto. È un intercalare, sì. Vabbè. Mi dicono tratto di un Fede scatenato al TG4, o sbaglio? C'era un Fede, sì, scatenato era. L'ha visto anche lei, professore? Ho visto, No, stavo leggendo delle carte, dei documenti su Walter Benjamin, Angelus Novus, robe che lei non conosce, evidentemente. Tra l'Angelus Novus e le monadi mi sono imbattuto nel TG4 di Emilio, una parodia di se stesso proprio. Vabbè, comunque, suo fratello, che si è definito una volta il Cacciari cattivo, Paolo Cacciari, ha deciso di dare una casa al figlio Tommaso, leader dei disobbedienti, difensore dell'occupazione abusiva dei centri sociali, ma per fare questo si è comportato, leggo sempre da quella sera, come i padroni avversati di un tempo: sfratto esecutivo all'affittuaria, una donna con due figlie, lavoratrice precaria. Cosa c'entra? Ma cosa, polemiche inutili, ma cosa c'entro io con quello che fa mio fratello Paolo? Mica capito. Mi telefonate a me, ponete domande a me sulla cosa che ha fatto un altro. Ma soltanto la zanzara poteva fare una cosa, e poi manda la mula, uno risponde, poi manda la zanzara, dopo traffico, zanzara parti. No, allora lì è una storia semplice: c'è mio fratello che ha una casa, l'aveva affittata, ne aveva bisogno e ha applicato la legge, ho capito, però... nomos in greco. Ho capito e fa le domande, ma si occupi di Berlusconi se non della casa di mio fratello, ma si rende conto? Mi telefona per questo, telefona a un filosofo, a un esteta per questo. Cosa pazzesca, ma non c'è più morale, non c'è più etica. Scusi, perché ha risposto? Devo andare da Don Verze, adesso mi sta rompendo i coglioni. Ma ti pare che mi telefona? Mi scusi, posso cacciare. Ma intanto mi ha telefonato, cosa vuol sapere? Possiamo parlare di qualcosa di serio o no? No, io volevo chiedere. Mi scusi, fa la domanda e poi dice mi scusi. Ma mi scusi di che cosa se mi ha telefonato? No, mi scusi se l'argomento non è di sua, non è di sua, e non è di mia pertinenza, di suo, no, perché non è mia la casa, non è mia, io vivo nella caverna di Platone, quella delle idee. Ho capito, però voglio dire, non ha nulla da dire sul fatto che soffra gli ideali, ma cosa le devo dire? Ma io devo dire qualcosa sulla casa di mio fratello? Ma si rende conto? Ma è come se chiedesse a, che so io, alla moglie di Berlusconi della casa di Berlusconi. Ma se la moglie di Berlusconi, cosa c'entra Berlusconi? Ma ti pare? Ma è una cosa pazzesca. Vabbè, allora mi perdoni, lei deve andare via, mi ha detto. No? Devo andare via adesso. Prendere una gondola e con la gondola fai tutto il Canal Grande leggendo Kant sul Canal Grande. Ma scusi, ma non stava andando da Don Verze? Ma ho cambiato idea, posso cambiare idea o no? No, ho capito. Deve decidere anche dove vado. Domani vado a Don Verze, ora sto con la gomma sul Canal Grande a leggere. Vabbè, d'accordo. Grazie a lei, grazie in questo caso. Anche grazie. Telefona, scusa, no. Allora il fratello, grazie. Non lo so. È una cosa pazzesca quel programma. Va bene, Erben, provincia di Milano, lasciamo il professor Cacciari, chiediamo scusa naturalmente umilmente per questa intromissione improvvisa. Erben, provincia di Milano, buonasera. Buonasera a lei, dottor Cucciari. Dica. Niente, volevo dire su Berlusconi, no? Sto pover'uomo, parlo col pover'uomo nel senso buono del termine, è 17 anni che lo prendono di mira a tutti i costi, questa sinistra, cioè voglio dire, dove vuole arrivare? Perché non ha altre cose a cui pensare, a vedere di cercare di trovare dei compromessi, di giocare insieme per risolvere i problemi della nazione, e si mettono a disposizione i complotti di queste escort così inventate, visto che ieri sera ho assistito alla trasmissione di Santoro, e l'unica battagliera del PDL rimane sempre la signora Santacchè a criticare Santoro, perché in fin dei conti è una vergogna vedere tutte queste cose così, cioè proprio si vede che questa signora, questa escort... Mente. Vabbè, adesso sì. Ma dai, su, è possibile mai che qui prove non ce ne sono, e si va sempre a guardare la vita privata, che io insisto sempre che a casa uno può essere Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, ma presumo che a casa propria quel poco di intimità, anche se è un uomo pubblico, deve pure averla, penso, no? Adesso parliamo così a livello umano, non voglio entrare nel merito politico, perché è chiaro che questa è una questione prettamente politica, no? Qui si cerca di distruggere a tutti i costi l'uomo Silvio Berlusconi. Perché? Perché c'è l'invidia, perché quest'uomo è arrivato da zero, probabilmente è vero, con l'aiuto di Bettino che l'ha salvato a suo tempo con le banche, però sto uomo non ha mai chiesto niente agli italiani. Beh, ha sempre creato senza chiedere niente agli italiani, perché non mi risulta che sia come la FIAT, no? Sì, ma adesso cosa c'entra Berlusconi? No, io volevo parlare di Fisa di Silvio Berlusconi. Ma questo si era capito, insomma, però. Basta, solo quello io volevo va dire. Bene, grazie, vabbè, grazie. Giorgio tutto. Da Padova, Giorgio, buonasera, dica. Buonasera, dottor Cruciani, buonasera, Parenzo. Una buonasera, battuta, no. Visto l'intervento dell'onorevole Crosetto, anche lui diceva che Berlusconi in queste serate è un uomo solo. Ha detto che aveva la fidanzata. Vabbè, d'accordo. Comunque, l'intervento dell'onorevole Crosetto secondo me è stato anche interessante e è vero, l'onorevole Berlusconi, il Presidente del Consiglio, secondo me è una risorsa, ma in questo momento è una risorsa come imprenditore, non come Presidente del Consiglio, perché cioè come è una risorsa come ogni cittadino è giusto che sia, e sicuramente se facendo un parallelo con Israele, che non è uno Stato che è fuori dal mondo e che è comunque sempre sotto stress, sia il presidente di Israele si è dimesso solamente sotto indagine, anche Olmert nel 2008, se non vado errato, si è dimesso indagato. Dopodiché, se gli italiani, se noi daremo ancora la fiducia a Berlusconi una volta che si ricandiderà e otterrà appunto i voti per essere Presidente del Consiglio, ben venga. Cioè, non è che questo, una volta scagionato, una volta assolto, una volta dimostrata l'innocenza, rientrerà in sella, punterà anche al Quirinale, tutto quanto. Luca, cosa dovrebbe fare? Non ho capito, si dovrebbe dimettere, Giorgio, non ho capito bene. Secondo me sì, un passo indietro, perché effettivamente... Ma per le ultime cose che sono uscite? Sì, perché effettivamente ci mette in una situazione di difficoltà, noi che lavoriamo ogni giorno e che siamo anche a contatto con l'estero. All'estero ci vedono veramente in maniera cioè, questa cosa ha toccato, questa cosa effettivamente tocca le corde dell'opinione pubblica, non solo italiana ma estera. Un'altra battuta mi conceda questa, cioè la Germania ha agganciato la ripresa, il nostro Presidente del Consiglio ha agganciato altre situazioni, non stiamo agganciando la ripresa, mi scusi dottore, però la dica un po' più, questa battuta la dica con un po' più di animo, sembra... È vero, la volevo dire con un po' più di animo. Grazie Giorgio, grazie, traffico, torniamo subito. Caro Parenzo, è stata decisa una sorta di controffensiva mediatica sui cartelloni, dal punto di vista pubblicitario, come dei grandi cartelloni pubblicitari di sostegno a Berlusconi, che vedremo quelli proprio grandi, come si chiamano a livello di dimensioni, 4x4, sì, come si dice? Quelli che fece anche a suo tempo il presidente operaio, quelli lì saranno. Sì, insomma, adesso non so bene come si possano definire, insomma, enormi cartelloni pubblicitari per strada in cui si esprimerà il sostegno a Berlusconi. Vabbè, questo. E vabbè, questo lo vedremo nei prossimi giorni. È curiosa la risposta di Santoro alla questione del telefono di Berlusconi, no? diffuso ieri, una parte. Il conduttore a leggere un'ansia si è difeso in questo modo: non l'abbiamo dato noi ma la ragazza. Beh sì, certo che l'ha dato la ragazza, però poi il servizio è montato, insomma. Certo, sono un attimo inquadrato, però vabbè, lì l'ha coperto le ultime due cifre, quindi, ho capito, ma il resto c'è sui verbali, per cui è uguale, cioè, adesso noi l'abbiamo provato. No, però un momento, no, qui è diverso, qui è diverso. Come diverso? Cioè il numero che è contenuto, ma sui verbali, no, ma lasciamo perdere i verbali, una parte del numero di Berlusconi, l'indirizzo, anche il numero civico, sì. Sì, ma dov'è Berlusconi si sa, ma una parte del numero di telefono di Berlusconi, dello stesso numero mostrato ieri durante l'intervista a Nadia Magri, una parte di quel numero è contenuta nei verbali, non tutto. Ebbene, è normale. Sì, è sì, normale, lasciamo perdere che se sia normale o no, credo di sì, ma comunque è curioso il fatto. Nei verbali c'è il domicilio. Ho capito, ma si poteva fare pure un omissis, cancellare di quei numeri di telefono nelle celle, vabbè, prima di mandarli alla camera, o no? Cosa interessa il dettaglio del numero di telefono? Guarda che la irresponsabilità, se c'è stata in questo caso, è quella semmai dei deputati. Cioè, voglio dire, il verbale è stato chiuso in una cassetta di sicurezza. Sì, no, ma io non sto dicendo, bisognava togliere i numeri di telefono. Io credo che bisognasse togliere il numero di telefono. Cioè, quei documenti lì, certo che non dovevano uscire, ma uno poteva pensare che sarebbero usciti, no? E comunque non ha nessuna importanza il fatto che ci siano le celle con i numeri, con i numeri di telefono. Perché oggi tutti hanno i numeri di telefono di tutti i protagonisti di questa inchiesta. È abbastanza curiosa questa cosa qui. Ma torniamo al numero di Berlusconi. Una parte del numero viene mostrato ieri sera, un'altra parte nei verbali si compone un numero di telefono che è quello del Berlusca. Puoi provarlo? Non l'abbiamo provato, ma non risponde, cioè silenzio totale, sarà stato disinnescato, come si dice, sarà stato eliminato. Non c'è dubbio. La chiamata, certo, spento. Certo. Cristiano da Padova, 800 24 00 24, dica. Buonasera. Padovano come me, Parenzo. Volevo rubarle 30 secondi per fare un ragionamento. A me non mi appassiona per nulla quello che fa Berlusconi a casa sua e come passa il suo tempo, però mi appassiona come viene preso il consenso da Berlusconi e come il consenso che viene preso viene poi utilizzato. Allora, citando ciò che Severgnini nel suo libro La pace degli italiani dice, no, alla fine sono 5 milioni gli italiani che leggono i giornali, che guardano certi tipi di TG, che guardano Santoro e così via, e quindi quelli non spostano il voto della maggioranza. Quindi in un certo senso, se io controllo i mezzi di comunicazione come controlla Berlusconi, riesco a coartare, comunque a ricavarmi un consenso che, tanto per fare un esempio, mia nonna che guarda le soap opera, guarda Beautiful, e io quando andiamo a votare il nostro voto è equivalente, quindi comunque il mio voto è quello di mia nonna. Quindi alla fine, se io riesco con i mezzi di comunicazione a crearmi del consenso raccontando anche cose non vere, come succede soventissimo guardando poi quello che propone molta parte della TV allineata, questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è quello che poi del consenso faccio, cioè che Berlusconi passi il suo tempo con delle belle ragazze, c'è tutta la mia invidia su questo. Allora, quello che però secondo me non è corretto è poi cosa fa di queste ragazze, cioè che la Minetti poi venga candidata e si faccia eleggere alla regione Lombardia, che una serie di persone che poi alla fine le cui qualità sono abbastanza dubbie, anche se sono laureate, hanno un curriculum accademico fantastico, ma poi alla fine siano le damigelle della sua corte, questo mi sta un po' meno bene, perché queste persone le pago anche io con le mie. No, ma guarda, su questo aspetto le do assolutamente ragione, anche se poi ripeto, anche persone che magari non hanno avuto grande esperienza politica possono dimostrarsi persone molto capaci, non c'è dubbio, però c'è bisogna dubbio. Avere un minimo di curriculum come è evidente, cosa che non è assolutamente chiara invece nel caso della signora Minetti, famosa igienista dentale, se non sbaglio, no? Caro Parenzo. Certo, laurea triennale al San Raffaele. Mario da Napoli, buonasera, signor Mario. Buonasera, salve. Senta, io ascoltando personaggi tipo Crosetto, non so se ridere o piangere, come si dice dalle mie parti. Nel senso che non lo so, dice da lei, Mario, non glielo posso dire io che deve fare. Lo so, però dico, da un lato ascoltare che Berlusconi, diciamo, è un generoso per cui dà case, gioielli, soldi, incarichi politici perché è un generoso, diciamo, da un lato mi aiuta nel senso a risolvere il problema di un mio amico che praticamente ha l'abitudine di andare a Campione d'Italia presso, diciamo, signore a pagamento e non sa come dirlo alla moglie, allora gli dico, digli che sei generoso e che fai come Berlusconi, fai un po' di beneficenza alle ragazze di Campione d'Italia. È meglio non utilizzare questo tipo di scappatoie, è un consiglio che do a lei o ad altri. Va bene, grazie. Voglio concludere con chi è che è stata più tempo in collegamento. Sara da Roma, una donna, Stefano da Catania, Vincenzo da Roma, li rimandiamo se vogliono naturalmente a lunedì. Sara, velocissima. Buonasera Crosani, buonasera. Semplicemente volevo manifestarti un dubbio che ho anch'io e che ho sentito anche l'ascoltatore di prima, comunque sì, ne ha parlato. Siamo sicuri che sia semplicemente vita privata, che comunque in qualche modo sia solamente la sua vita, le sue donne e in qualche modo quindi anche questa ammirazione che poi tutto sommato un po' serpeggia anche strisciante all'interno anche dei tuoi microfoni, di molti giornali. Io non lo so, io da quello che vedo e dall'immagine che è stata data, un po' il ruolo della donna secondo me ne esce veramente distrutto. Io non credo che le persone, non penso, purtroppo devo concludere altrimenti continuerei a colloquiare con lei, cara Sara, ma devo dire che non credo che le ragazze che vanno alle scene o alle feste o a non so cos'altro di Berlusconi rappresentino l'Italia. Ma è né un modello di donna né un modello di ragazza di oggi. Caro Parenzo, ci sentiamo lunedì. Ciao. Poi martedì, Bruxelles, come si dice? Bruxelles, è vero. Ciao, lunedì. Ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.